Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Domani è Natale, occasione per la quale quindi da me, dalla mia redazione, da parte di tutti noi, giungono gli auguri di un buon Natale a voi e ai vostri cari. Abbiamo deciso di augurarvi buon Natale con una storia che secondo me porterà, non dico serenità nel cuore della famiglia che ora andremo ad ascoltare, ma forse permetterà loro di sentire un po' meno pesante questo Natale. Lo faccio quindi con la felicità io nel cuore nell'affrontare questa trasmissione, questa puntata, e spero che un po' di questa felicità venga trasmessa anche a voi cari ascoltatori, perché la maggior parte di noi si riunirà per festeggiare o comunque per avere dei pensieri sereni. C'è chi, vittima delle mafie, questi pensieri sereni non sempre può averlo. Un pizzico però di felicità in più può esserci nel cuore di Mario Congiusta, che è il padre di Gianluca Congiusta, ucciso il 24 maggio 2005 a Locri. Sono passati ormai quindi più di 5 anni. Il padre ha sempre combattuto in ogni occasione per salvaguardare l'onorabilità del figlio in valore assoluto e per portare a compimento un processo che doveva condannare chi era ritenuto responsabile. Ebbene, proprio mentre il Natale si avvicinava, il 18 di dicembre la Corte di Assise di Locri ha condannato all'ergastolo il boss dell''Ndrangheta, leggo testualmente dall'ANSA, Tommaso Costa, proprio per quell'omicidio. Il giorno dopo, ironia della sorte, il 19 dicembre Gianluca Congiusta avrebbe compiuto 37 anni, quindi un regalo di compleanno, diciamo così, tra i migliori e tra i peggiori allo stesso tempo. Buongiorno Mario Congiusta. Buongiorno Roberto. Buongiorno, allora, a tutti gli ascoltatori. Come è cambiata la tua vita, non in questi anni che purtroppo sappiamo essere tragicamente cambiata, ma come è cambiata in questi ultimi giorni alla luce di questa sentenza? Ah, guarda, intanto ci sentiamo molto più rasserenati, nel senso che questa è una sentenza che fa cadere il fango che è stato gettato addosso a Gianluca e a tutta la nostra famiglia, perché già dal primo giorno, come sai, in ogni omicidio di 'Ndrangheta si comincia a buttare fango addosso alla vittima. Assolutamente, si comincia a delegittimare. Si comincia a delegittimare e quindi si è parlato di donne, di traffici di droga, di armi, di tutto e di più. Se Gianluca avesse fatto tutte quelle cose non avrebbe avuto il tempo di fare il suo lavoro, che era quello di vendere telefonini. Assolutamente, di essere una persona onesta con una famiglia onesta alle spalle. Io credo che non ti faccio un torto se ti chiedo come passerai questo Natale, come passerai queste feste. Ci puoi raccontare come passa, come dire, queste ore chi ha avuto il bene più prezioso sottratto alla propria vita, cioè la vita di un figlio? Guarda, la nostra non è più la vita di prima, indubbiamente, perché per una famiglia c'è un prima e c'è un dopo. E noi il giorno di Natale, io guarda, proprio l'altra sera guardavo il compleanno di Gianluca, avevamo già fatto l'albero come da tradizione. Noi non facciamo l'albero da 5 anni. Certo. Perché non si festeggia più il Natale, non si festeggia più nulla. Assolutamente. Esistono le feste. Certo, ecco, quindi, ma non solo a casa mia, a casa di tutti i familiari delle vittime. Ecco, ma infatti questa puntata ci tenevo a registrarla e mandarla in onda oggi proprio per questo motivo, non per intristire i cuori di quanti doverosamente, giustamente, svolgeranno un sereno Natale, ma soltanto per ricordare che piaga è ancora oggi la mafia in Italia e sempre di più. Come hai per esempio vissuto tu questa sorpresona che c'è stata presso molti politici o notabili del nord che hanno scoperto l'esistenza dell''Ndrangheta a nord? Come l'hai vissuta tu? Ah, guarda, io vedo che i segnali c'erano stati, per cui che poi qualche sindaco non abbia voluto proprio ammetterlo che l'Andrangheta fosse al nord, un sindaco di un paesino di 2000 abitanti che si vede costruire tutto intorno in deroga al piano di fabbricazione centinaia di appartamenti, dovrebbe anche porsi la domanda come mai proprio qua e perché e chi. Certamente, ma infatti tu sai da quanto tempo io sto battendo tra trasmissioni, articoli, libri, ormai non so più come gridarlo che gli investimenti, ma ho scoperto l'acqua calda, sono semplicemente al nord, perché è chiaro che al sud ormai più piegato di così non lo si può piegare, mentre invece è proprio la linea della Palma, come diceva Sciascia, che si sta alzando, ed è al nord che oramai le popolazioni cercano, come dire, si cerca di piegare le popolazioni del nord con questi capitali sporchi, con le infiltrazioni mafiose sempre più evidenti. Mario, volevo chiederti un'altra cosa. In pochi giorni fa, lì a due passi da te, è stato arrestato un ex sindaco. Ti chiedo, ma la popolazione rispetto a prima è più vigile oppure non cambia niente nelle vostre terre? Guarda, una parte di popolazione è sempre stata vigile, anche se in dubbio la popolazione ha paura. La popolazione ha paura perché purtroppo non ci sono le certezze dell'espiazione della pena. Assolutamente, cioè si corre il rischio. Chi denuncia un racket, che è... chi denuncia dopo un po' dopo qualche anno si ritrova l'estorsore davanti alla porta. Allora, questo richiamo di Mario Congiusta, che ringrazio per il suo intervento, alla certezza della pena sarebbe, come dire, uno splendido regalo di Natale, non dico per quest'anno che ormai è passato, ma per il prossimo, se il legislatore riuscisse a fare in modo che quando si ha una sentenza di condanna passata in giudicato, effettivamente la si espii fino in fondo, perché altrimenti si fanno soltanto chiacchiere e distintivo, come si diceva in un film famoso alcuni anni fa. Grazie ancora a Mario Congiusta per il suo racconto, grazie a Filippo Aureggi in regia e Laura Faggin in studio, e da Roberto Gallullo ancora una volta un sereno Natale a tutti voi.